Buon ascolto di nuovo, il pomeriggio è sempre radioso, un ottimo clima direi, molto più caldo di quello che dovrebbe fare teoricamente a novembre. Siamo qui con una compagna del comitato del referendum, quello che appunto ha lavorato per quello straordinario risultato del e a cui ha partecipato anche la radio, come sapete, sostenendo questo referendum. E a lei faccio la prima domanda rispetto alla partecipazione, su cui c'è diciamo una spiegazione che motiva un afflusso forse inferiore a quello che si sperava, no? Beh no, sicuramente nessuno di noi si aspettava l'affluenza dell'anno scorso, insomma c'era anche tutto il pezzo del nucleare che quest'anno non c'è, però in realtà adesso ci hanno detto di fermarci perché la coda è ancora a Piazza della Repubblica e noi siamo ormai a Porta Maggiore, quindi come è consueto nelle manifestazioni a Santa Maria Maggiore, come è consueto nelle manifestazioni romane, si rimpolpano strada facendo. Arriveremo fino a Piazza Bocca della Verità, quindi insomma chi ci vuole raggiungere lì in piazza, ci saranno musica e interventi nella stessa piazza in cui abbiamo festeggiato il 12 e 13 giugno e diciamo che è davvero il popolo dell'acqua che è in piazza questa volta e c'è stata un po' di difficoltà insomma a far muovere le organizzazioni, le grandi organizzazioni nazionali. E questo probabilmente anche in virtù di un momento molto strano per il paese, con un grande impegno per far cadere il governo Berlusconi in una sorta di quiete per stare a vedere che cosa succede adesso con il nuovo governo Monti. No, tu prima mi dicevi, prima che iniziasse il collegamento, che c'era proprio un problema pratico, ci stanno moltissimi comitati che avrebbero voluto partecipare, ma proprio per un problema economico non hanno potuto e tu ricordavi prima del referendum c'era anche un sostegno organizzativo ed economico da parte di organizzazioni sindacali tipo la CGIL, partiti eccetera eccetera che invece facilitavano proprio tecnicamente, praticamente questa adesione che invece adesso, vista anche la crisi, è in difficoltà, no? Sì, diciamo sappiamo che fare le manifestazioni è sempre più costoso sia per organizzarle che per partecipare e a marzo ovviamente in piena campagna referendaria c'era stato un forte contributo da parte dell'organizzazione, da parte dei partiti, anche logistico, nella logistica ovviamente dell'organizzazione dei pullman e questa volta sono tornati diciamo ad assumersi gli oneri sia logistici che economici i comitati dell'acqua puri insomma che sono quelli che comunque sono in campo dal 2006 e che hanno organizzato la prima manifestazione nel 2007 e quindi ovviamente da questo punto di vista c'è stata un po' più di fatica che comunque come noi ci aspettavamo porta lo stesso alla costituzione di una grande manifestazione perché appunto il popolo dell'acqua per fortuna ha sempre mantenuto la barra dritta, ha sempre avuto un obiettivo a prescindere dal susseguirsi delle vicende politiche del paese. Ecco, veniamo alle questioni politiche più di attualità. Abbiamo questo nuovo governo sostenuto praticamente da tutti i partiti parlamentari tranne la Lega e c'è un nuovo ministro con un passato nuclearista. Voi avete fatto una richiesta di incontro al nuovo capo del governo Monti e poi volevo chiederti appunto se vi ha risposto e la vostra valutazione delle difficoltà che indubbiamente ci sono con un governo che, per dirne una, nel discorso inaugurale non ha pronunciato la parola ambiente neanche una volta, non parliamo poi di acqua e servizi e beni comuni. Sì, purtroppo i beni comuni ce l'ha in mente probabilmente questo governo come possibile fonte di reddito per ripianare questo famoso debito. Sì, noi al ministro Monti abbiamo chiesto un incontro il giorno del suo insediamento, la risposta ancora non c'è arrivata, ma pensiamo che per questo governo sarebbe davvero un'ottima occasione di fare qualcosa di democratico, visto che è nato in un modo quantomeno inusuale che poco ha a che vedere con i processi democratici del nostro paese e diciamo che invece il rispetto del voto del 12 e 13 giugno sarebbe un radicarsi dal punto di vista democratico nel paese. È ovvio che per rispettare quel referendum c'è bisogno un po' di ripensare l'assetto della manovra, cioè il bisogno di ripensare anche l'assetto del governo forse, perché sappiamo bene insomma, che nei posti chiave sono stati messi personaggi che diciamo rappresentano proprio quegli interessi privati ai quali il referendum ha dato invece uno stop.